C'è però qualcuno che invece ha ritrovato delle persone, direi dei familiari in questo caso, che erano molto lontane, che erano addirittura in Irlanda. È Tina dalla provincia di Milano. Pronto Tina? Pronto, Matteo, salve. Ciao, no, buongiorno in Tina. In America sì, addirittura. In America, allora, niente, il fratello del nonno che era partito tanti anni fa, ovviamente, negli anni 50, negli Stati Uniti, nel Michigan, Detroit, quindi lavorava alla Ford, eccetera. Poi il fratello negli anni 70 era andato per lavoro in America, li aveva anche andati a visitare, trovati, poi ci siamo persi di vista. E circa due anni fa invece mio fratello aveva conservato il numero, eccetera, ha provato a chiamare di notte, ovviamente, ha ritrovato la moglie di uno dei figli, che era l'ultima della generazione, la nonna di questi nipoti che adesso sono dei nostri cugini. E quanti anni hanno adesso? Quanti anni aveva lei adesso? Lei aveva 87 anni, la signora rideva perché pensava fosse uno scherzo. E mio fratello gli diceva che ci siamo incontrati lì in America negli anni 70 e dopodiché ha informato tutti i nipoti, ci hanno mandato tutte le foto via mail, e ci siamo incontrati perché uno di questi, Michael, ha 42 anni, sono e 3 o 4. Tina, dove vi siete incontrati? E ci siamo incontrati a Magenta perché lui ha una società anche in Irlanda.